Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meris, bentornati a Smart City, settimana speciale, questa in collaborazione con il progetto Audi Innovative Thinking. Ebbene, dovete sapere che aggirandosi per la campagna siciliana può capitare di imbattersi in delle specie di colate laviche di colore arancione acceso. Non si tratta di rocce incandescenti, ma di bucce d'arancia, quant'altro rimane degli agrumi dopo la spremitura. Il pastazzo, a decine di tonnellate, scaricato abusivamente per evitare i costi di smaltimento a fronte di un prezzo pagato per il succo d'arancia, questo va detto, ridicolmente basso. Produciamo circa 700.000 tonnellate di pastazzo ogni anno in Italia, metà del quale in Sicilia. Da questo problema sono partite Enrica Arena e Adriana Santanocito, catanesi coinquiline ai tempi dell'Università di Milano, per sviluppare Orange Fiber. Orange Fiber è un progetto per produrre dagli scarti degli agrumi tessili per la moda, dotati anche di particolari proprietà funzionali. Ne parliamo con Adriana Santanocito, che delle due è l'esperta di materiali e tecnologie. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, dagli scarti delle arance e tessuti di moda come si fa? Allora, noi prendiamo gli scarti di trasformazione delle industrie agrumicole che fanno succhi. Sì. Prendiamo il pastazzo, lo trasformiamo tramite un'estrazione che noi, un processo che noi abbiamo brevettato, in cellulosa. Ok. E questa cellulosa poi viene filata, poi viene tessuta. Certo. E quindi da qui abbiamo il nostro processo per ricavare il primo tessuto al mondo agli agrumi che abbiamo appena presentato. Appena presentato, anche voi l'avete avuto tra le mani, credo, veramente poco tempo fa, no? L'avete presentato a settembre. Ecco, che tipo di tessuti si fanno con la cellulosa? Ce ne sono già, no? Sì, tradizionalmente dalla cellulosa si creano tessuti che sono dal legno, dall'estrazione del legno, sì. Sono la viscosa e l'acetato. Ok, e voi farete qualcosa di simile? Anche il nostro è un tessuto di acetato di cellulosa, però da agrumi. Perfetto, perfetto. Ecco, non solo però il vostro progetto ha questa caratteristica già molto interessante, cioè il fatto che parte da un ex, a questo punto, rifiuto, ma i vostri tessuti hanno anche un'altra caratteristica in più, sono dei tessuti funzionali, ci spiega? Sì, allora, si chiamano cosmetotessili. È praticamente l'applicazione di nanotecnologia, quindi vengono applicate delle microcapsule sul tessuto che contengono oli essenziali di agrumi. Queste microcapsule sono veramente piccole a livello nanometrico e rilasciano. Parliamo di millesimi di millesimi di millimetri. Sì, giusto? Esattamente, cioè, impercettibile all'occhio umano. Assolutamente. Si rompono gradualmente al contatto con la pelle, al calore della pelle, e rilasciano appunto questi oli essenziali che fungono da crema cosmetica indossata, ecco. Cioè, questo è il significato del funzionale vitaminico del nostro tessuto. Ecco, quindi proprio queste sostanze contenute in queste capsule, che sono come delle sferette, bisogna immaginare così, cave capaci di incapsulare appunto del materiale, lo rilasciano gradatamente, avendo appunto, voi dite, un effetto cosmetico di ammorbidimento, diciamo così, della pelle. Quanto dura questa carica che voi conferite al tessuto riempiendolo di queste capsuline? Allora, attualmente la tecnologia che utilizziamo riesce a resistere intorno tra i 5 e i 10 lavaggi. Okay. Noi per questo vogliamo comunque testare l'effetto, la durata del rilascio vitaminico del nostro tessuto, e per questo abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding che trovate sul nostro sito e sui nostri social, già il link diretto per vedere la campagna, e soprattutto perché dobbiamo appunto investire in ricerca e sviluppo per testare questa tecnologia, e quindi abbiamo insomma. Ecco, ma perché? Perché voi volete renderli ricaricabili, no? Sì, noi vogliamo rendere ricaricabile il tessuto, okay. E quindi in questo modo la persona può direttamente ricaricare di questi oli essenziali il proprio capo a casa. Con un lavaggio, come si fa? Sì, a bagno. Si mette in un catino con qualcosa, in lavatrice, come funziona? Sì, si può fare sia a mano che in lavatrice. Ah, comunque okay. Questo è tutto oggetto di studio e di test che noi appunto tramite questa campagna speriamo di realizzare. Prossimo passo quale sarà? Allora, il prossimo passo, il nostro prossimo obiettivo è presentare la prima campionatura di tessuti ad Expo, okay. E soprattutto comunque quella di testare appunto di migliorare la tecnologia della ricarica vitaminica del tessuto. Va bene, grazie allora, grazie Sant'Anocito, in bocca al lupo. Grazie mille a voi. Appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.